Siamo tutti a conoscenza che la Bibbia è stata scritta in ebraico per quello che riguarda l'Antico Patto e in greco per il Nuovo Patto. Nel corso dei secoli, perché potesse essere letta, la Bibbia fu tradotta in varie lingue. Nel 400 a Cesarea, Girolamo, insigne studioso, eseguì la traduzione in latino dell'Antico e Nuovo Patto, perché allora il latino era la lingua più parlata. Questa traduzione prese il nome di Vulgata, intendendo così che essa poteva essere utilizzata da chi non conosceva le antiche lingue nelle quali erano scritti i libri della Bibbia. Nel 1546, dopo la Riforma protestante, essa fu dichiarata dal Concilio di Trento quale versione ispirata e testo ufficiale della religione cattolica. Ne esistono 8.000 manoscritti. La Bibbia tradotta in italiano non può avere più di 1.000 anni, perché l'italiano è nato circa l'anno 1000, e tra le diverse versioni va ricordata la Bibbia di Giovanni Diodati, nel 1607, chiamata la Diodati, la quale viene ritenuta anche dal cattolicesimo uno dei capolavori della lingua italiana. Ma dal 1607 ad oggi sono state messe sul mercato tante altre traduzioni, ossia la Nuova Diodati, la Riveduta, la Nuova Riveduta, la Thomson, la Scofield e tante altre Bibbie cattoliche. Perché di tanto in tanto si sente il bisogno di tradurre nuovamente la Bibbia? Non bastava la Bibbia del Diodati o quelle tradotte appena 30 anni fa? La ragione è una sola. Le parole nel corso del tempo subiscono un logoramento se non addirittura una alterazione, per cui è necessario di tanto in tanto tradurre termini vecchi in quelli attuali. Facciamo alcuni esempi indicativi di come alcune parole antiche non possono essere comprese oggi. Cosa significano i termini pippione, siemvi, parimenti, veggendo, conciossia che? Sono termini che troviamo nella Bibbia Diodati e per quanto uno li legga, se non conosce questi termini non capirà ciò che legge. Una dimostrazione poi che i termini con il tempo cambiano l'abbiamo nelle parole pietanza e tavola. Il termine pietanza significava inizialmente pietà, poi indicò il cibo che si dava in segno di pietà. Tavola era un termine che indicava l'ufficio di colui che prestava o amministrava soldi altrui. Se questo è il destino di una lingua, com'è possibile pretendere di comprendere le parole della Bibbia, la più giovane delle quali ha 2000 anni? Scriveva Fernando De Angelis, un professore di scienze, il 30 ottobre 2005 sulla rivista Proiezioni Culturali nel libretto Dizionario sull'Evoluzione. Nel Tempio delle Scienze italiano, cioè l'Accademia dei Lincei, il più stimato evoluzionista, inaugurò un corso di aggiornamento per insegnanti, naturalmente rispondendo e difendendo l'evoluzionismo darwinista. La sala delle conferenze era gremita, ed io ero lì un poco intimorito dalla sacralità del luogo e dall'autorevolezza dei suoi sacerdoti. Finita la conferenza si aprì il dibattito, ma nessuno osava prendere la parola. Come chiarimento preliminare chiesi allora al relatore di darci una definizione della teoria dell'evoluzione, in modo che non ci fossero equivoci nella discussione. Successe l'incredibile perché il relatore disse che non se l'era preparata e non se la sentiva di improvvisarla. Poi, dietro insistenza, ne diede una definizione alquanto vaga. E, successo più di 20 anni fa, ma da allora niente è cambiato, e la indeterminatezza del linguaggio non è un'esclusiva di una parte, ma è largamente praticata un po' da tutti, anche da chi si definisce creazionista. Nei dibattiti e sui testi scolastici, così, in realtà non si fa un confronto fra evoluzionismo e creazionismo, ma è solo confusionarismo. Chi parla vuol dire una cosa, mentre chi ascolta ne capisce un'altra. Non di rado è anche peggio, perché si esprime il proprio pensiero in modo vago, proprio per non esporsi a critiche e per far credere all'ascoltatore qualcosa di diverso da ciò che realmente si pensa. Essendoci questa prassi consolidata, a molti il confusionarismo sembra normale, altri in fondo ci sguazzano. Così spesso si notano orecchie da mercanti quando si fa notare il problema. Il compito più urgente, perciò, non è quello di discutere, ma di definire le parole. Abbiamo allora dato inizio ad un dizionario sull'evoluzione, che comincia col definire le prime parole chiave. Fernando De Angelis ha colto nel segno. Se il compito più urgente è quello di definire le parole, se è necessario un dizionario biblico nel campo della scienza, a maggior ragione è necessario averne uno relativo alle parole della Bibbia, perché è verissimo che chi parla di Dio vuol dire una cosa, mentre chi ascolta ne capisce un'altra, e che noi oggi usiamo i termini biblici in modo vago per non esporci a critiche e per far credere all'ascoltatore qualcosa di diverso da ciò che realmente si pensa. Perciò dobbiamo con uno sforzo di onestà uscire fuori da questo doppio gioco e cercare di metterci d'accordo sui termini biblici. Tra i tanti vocaboli biblici sui quali occorre avere una comprensione comune è certamente il termine Dio. Su questa parola si gioca la fede cristiana e la comprensione della Scrittura, e quindi non può essere ignorata. Appena l'uomo parla di Dio, si accorge con terrore che parla di tutt'altro. Ho letto questa definizione tanti anni fa e credo che niente sia più vero. Questo fatto crea non pochi problemi alla comprensione della parola di Dio e notevole difficoltà sia nella partecipazione della propria fede, sia nella reciproca comunione fraterna. Se il termine Dio fosse una pax, cioè una parola che viene usata un'unica volta, sarebbe normale una certa indeterminatezza, ma dal momento che la parola Dio è uno dei termini più comuni, c'è è davvero motivo di stupirsi della tanta confusione in merito alla sua comprensione. Prendiamo due esempi. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. G.V. 4.24. Sembra che per i cristiani questa affermazione costituisca la pietra angolare sulla quale costruire ogni altro ragionamento in merito a Dio. I libri di teologia insegnano che Dio, essendo spirito, non ha e non può avere un corpo. Questo concetto è avvalorato dagli ebrei e dai testimoni di Geova. Ma se Dio non ha un corpo, chi camminava allora nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva? Gn 3.8. Se Dio non ha un corpo, come poteva Abramo aver visto Dio quando gli apparve, cioè si fece vedere? Gn 17.1. Se Dio non ha un corpo, come mai? Giacobbe lottò con Dio, al quale nel racconto biblico si fa riferimento come a un uomo. Gn 32.2-430. Infatti l'uomo gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto. Se si continua ad insegnare che Dio non può avere un corpo, per forza di cose nelle conversazioni con ebrei e testimoni di Geova, non siamo in grado di avere dei ragionamenti persuasivi in merito a Dio. Inoltre, se noi insegniamo che Dio non può avere un corpo, come possiamo testimoniare che Gesù, come uomo, è Dio, e pretendere che i musulmani credano che Gesù sia Dio pur essendo uomo? Non dobbiamo forse cercare di comprendere cosa significa che Dio è spirito? Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre e quello che l'ha fatto conoscere. G.V. 1.18. Se nessuno ha visto Dio, chi hanno visto allora i credenti nell'Antico Patto? Così troviamo scritto: poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu, e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato di zaffiro, della chiarezza del cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro i capi dei figli di Israele, ed essi videro Dio, e mangiarono e bevvero. Esodo 24.9.11. Poiché la parola di Dio non si contraddice, se sosteniamo che Dio non si può vedere perché non ha un corpo, dobbiamo umilmente ammettere di non aver capito ciò che leggiamo. Perciò è più che necessario creare un vocabolario biblico comune. Un'idea forse strana, ma a titolo di curiosità, il primo vocabolario venne alla luce solo nel 1612 da parte dell'italiano Leonardo Salviati. Nessuno ci aveva mai pensato prima, né in Italia né altrove. Da Perché parliamo italiano? Paolo Granzotto, casa editrice Le Lettere, 1998. Prendiamo esempio di un errore madornale in merito alla nostra opinione sul termine Dio. Noi diciamo e insegniamo che gli ebrei credevano e credono tuttora in Dio, e se anche questa affermazione ha del vero, non è vero quello che si intende comunemente. Prendiamo come esempio. Sono tre versi nell'Antico Patto. Punto punto. L'Eterno disse a Mosè, «Va da Faraone e digli, così dice l'Eterno, il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo, perché mi possa servire». Es 9. 1. Vedi Esodo 3.18, 5.3, 7.16, 9.16, 10.3. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Nu 15.41. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio? Di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio. Con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. DT 10.12. Chiunque legge queste parole comprende che il Dio degli ebrei era l'Eterno, e poiché il termine «eterno» è la traduzione del tetragramma ebraico, cioè J-H-2-H, il Dio degli ebrei era dunque Yahweh. Perciò, per gli ebrei Yahweh era la loro divinità. Dichiarando che gli ebrei credevano in Dio, testimoniamo semplicemente la loro fede in un essere supremo, come del resto anche gli altri popoli avevano il loro Dio, cioè la loro divinità. Nulla di più. Così, mentre il popolo degli Ammoniti adorava Moloch, i Cananei adoravano Baal, i Babilonesi adoravano Bel, gli Ebrei adoravano Yahweh come loro Dio, con una differenza. Mentre le divinità degli altri popoli erano solo nomi astratti senza senso, per Israele Yahweh aveva un corpo, era stato visto e toccato. Ne avevano visto la presenza tra il popolo durante i 40 nel deserto. Per questa ragione, limitandoci ad affermare che il popolo ebraico credeva in Dio, diciamo qualcosa di deviante, e chi ascolta capisce quello che vuole. E per far comprendere l'importanza che hanno le parole nel nostro immaginario, partendo dal presupposto che Gesù è Dio, se dicessi che l'apostolo Giuda ha parlato con Dio, che Ponzio Pilato ha visto Dio, direi una verità ma fuorviante, perché Gesù è sì Dio, ma non posso esprimermi in questo modo, come non posso limitarmi a dire che gli ebrei credevano in Dio. Ecco dunque che il termine Dio è una delle parole più ambigue destinate al confusionarismo, e chi ama la verità e la chiarezza dovrà inserirla in un vocabolario che sia comune a tutti, affinché tutti possiamo essere d'accordo quando si parla di Dio e non ci accorgiamo con terrore di parlare di tutt'altro. Proprio perché non vi accordo in merito al termine Dio, oggi si dice che abbiamo tutti lo stesso Dio, e i cristiani, per non esporsi a critiche e per far credere all'ascoltatore qualcosa di diverso da ciò che realmente pensano, sono i primi responsabili di questa confusione religiosa. Che Cristo Gesù dia alla Chiesa la consapevolezza dell'urgenza di definire un vocabolario biblico comune. Giugno 2007. Ellero.